Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Benvenuti, eccoci insieme. L'unità nazionale diventa festa per tutti e noi vogliamo celebrarla a modo nostro, con passione prima di tutto, con convinzione, e anche un po' perché fa rima, un po' perché abbiamo con noi uno straordinario cantautore. Noi parleremo di unità anche attraverso la canzone, ma non voglio anticipare troppe cose. Voglio salutare Alberto Pellai, che è in linea. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buona Italia a tutti. E poi lasciatemi augurare buona Italia a Luca Barbarossa, che è in linea con noi. Luca. Ciao a tutti, buongiorno, buon 150enario a tutti. Senti, come sta andando a te in questa giornata di festa? Bene, grazie. Insomma, devo dire che ieri ho preso parte a questa celebrazione televisiva che Rai 1 ha dedicato ai 150 anni dell'Unità d'Italia, cantando insieme a Raquel del Rosario una canzone addirittura antecedente all'Unità d'Italia, una canzone del 1848 che è L'addio del volontario, Addio mia bella addio. E poesia straordinaria, secondo me, scritta da Carlo Alberto Bosi, che era appunto un volontario arruolato nella prima guerra d'indipendenza contro gli austriaci, e quindi era uno che non era uno di quegli intellettuali che guardava le cose dalla Torre d'Avorio, insomma, ma era proprio implicato, era lì a rischiare la pelle, e di conseguenza i suoi versi assumono un significato molto molto profondo. Luca, io sono molto felice di averti qua con noi oggi, perché io credo che tu, con il tuo personale percorso artistico, sei un forte testimone dei valori che oggi vogliamo discutere e approfondire in una prospettiva che non è solo storica, ma un po', come tipico di Essere e Benessere, anche psicologica e sociologica. Noi esploreremo i temi e i valori dell'unità attraverso parole chiave che ci saranno raccontate da Alberto con un taglio psicologico e da Luca attraverso le sue canzoni. Però ho una bella sorpresa anche per voi che ci state ascoltando. Aiutateci a scrivere una mappa con le parole chiave, i valori su cui voi credete si debba fondare la celebrazione di oggi. Eventualmente, mi piacerebbe, raccontateci fatti e ricordi della vostra infanzia e della vostra vita. E insomma, però, datevi da fare, perché Luca inviterà personalmente 6 di voi a teatro con un vostro accompagnatore, e potrete così assistere suoi ospiti ai concerti di Milano dell'11 aprile, di Torino del 12, oppure da Roma il 15. Scegliete voi quindi quale luogo e data. Tra l'altro saranno concerti davvero importanti, perché oltre a Luca Barbarossa e ai suoi brani vecchi e nuovi saliranno sul palco ospiti davvero importanti. Luca. Sì, e questo album, un album doppio, 23 canzoni, sono un pazzo, cioè ho fatto sì, un album doppio. Devo dire di sì. in un momento di mercato in cui anche gli album singoli hanno, diciamo, le loro difficoltà, però questo era proprio un lavoro corale. Sì, che Barbarossa Social Club hanno preso parte tanti amici, tanti artisti, Fiorella Mannoia, Neri Marcore, Roy Paci, Max Gazzè e Raquel del Rosario, che ha fatto con me anche il brano del festival. Quindi anche nei concerti mi piaceva ricreare questa atmosfera di unità, di gruppo. Sì, visto che si parla di unità. Certo, appunto. Allora cominciate a scrivere, datevi da fare, a chiamare 800 24 00 24. I messaggi potete farli arrivare come sempre al 349 238 6666. Sceglieremo 3 messaggi e 3 telefonate. Allora avrete quindi una ragione in più per festeggiare. Chiamateci e scrivete. Ma prima di tutto partiamo dalla parola che è proprio al centro della nostra attenzione, del nostro cuore oggi, la parola unità, che fa da titolo anche ad un progetto molto importante di cui abbiamo parlato, lanciato proprio a Sanremo. Addio, mia bella addio, l'armata se ne va, e se non partissi anch'io sarebbe una viltà, e se non partissi anch'io sarebbe una viltà. Non piangere, mio tesoro, forse io ritornerò, ma se invadere ciel ti rivedrò. Luca Barbarossa con Rachel De Rosario che cantano Addio, mia bella addio. Io mi emoziono, Luca, eh? È proprio... Perché, guarda, è una canzone straordinaria. Dal punto di vista melodico è una melodia di una bellezza che ci rimane dentro e la ricordi pur non essendo una melodia banale. E poi le parole ovviamente fanno il resto. Ci sono tantissime strofe poi di questa canzone. Noi abbiamo fatto una selezione scegliendo forse anche quelle... come posso dire, più rapportabile anche ai giorni nostri. E poi la cosa, anche la sfida è stata quella di rendere una marcetta militare, perché poi spesso questa è stata così, è cantata in questo modo, ed in coro, e dai soldati e tutto, renderla una ballata con le caratteristiche, le sonorità delle ballate di oggi, insomma. Ecco, questa piccola sfida così musicale di attualizzazione anche è stata veramente appassionante da parte nostra. E infatti ha avuto uno successo straordinario, e di questo successo deve andare fiero ed orgoglioso anche il professor Attilio Maseri, presidente della Fondazione per il Tuo Cuore Onlus, che è in linea con noi. Buongiorno professore. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Partner di questa bella iniziativa, il cui ricavato servirà proprio a finanziare attività di prevenzione e di ricerca. Professor Maseri, come vi è nata questa bella idea? Beh, l'idea è nata già da vari anni, perché questa fondazione è stata costituita dall'Associazione Cardiologi Ospedalieri Italiani un decennio fa, e diciamo questa associazione conta su più di 5.000 iscritti distribuiti su tutto il territorio nazionale, dal Trentino alla Sicilia, dal Friuli al Piemonte. A proposito di unità. Appunto, proprio per quello l'ho accennato. E ha un'organizzazione molto compatta, con un centro studi a Firenze che è collegato in rete a oltre 400 cardiologie, per cui possono raccogliere tutte le casistiche dei casi che adesso stanno diventando il fuoco della nostra ricerca, perché vede, le malattie cardiovascolari sono la causa numero uno di malattia, di spesa sanitaria e purtroppo di morte, perché l'età media aumenta e le malattie cardiovascolari tendono a essere più frequenti nell'età avanzata. Sì. E siamo diventati molto bravi a correggere i guasti quando li troviamo. Adesso però siamo diventati molto più ambiziosi e vogliamo prevenirle. Per prevenirle abbiamo anche lì fatto molti passi e abbiamo incominciato da vedere che cos'è che in media rende più probabile il rischio di andare incontro a malattie cardiovascolari. E qui abbiamo scoperto alcuni fattori di rischio, tutti noti: il colesterolo, la pressione, il fumo, l'obesità, la scarsa attività fisica, che diciamo aumentano il rischio di avere grane, di crearsi dei problemi. Abbiamo anche dimostrato che se si correggono questi fattori il rischio diminuisce. Certo. Dove cosa resta da fare? Resta da fare che questa è una delle cose che abbiamo identificato, ma questa non ci spiega tutto. Non ci spiega tutto perché? Perché ci sono degli individui, e io mi vergogno quando vengono da me i pazienti e mi dicono: ma scusi, io non fumavo, il mio colesterolo è basso, la mia pressione è alta e mi trovo qui con l'infarto, che devo fare? E io dico: perché mi è venuto? Non lo so, non lo sappiamo. Se vogliamo dare una scusa possiamo sempre dire, dice: ma sua moglie fumava? Eh sì, qualche sigaretta. Dice: allora il fumo passivo, allora gli è venuto per quello. Sì. Capisce? Cioè cerchiamo di spiegare tutto con quello che sappiamo. Invece bisogna cambiare marcia, è quello che stiamo cercando di fare, e vedere che cos'è che hanno, come altri diavoletti che non conosciamo, questi individui che, pur non avendo fattori di rischio, e sono tanti, circa un terzo di quelli che finiscono in un pronto soccorso con un infarto, non hanno fattori di rischio, e un 40% ce ne hanno uno solo. Quindi, capito, quello che noi abbiamo scoperto è una piccola parte della realtà, e adesso dobbiamo umilmente riconoscerlo e darsi da fare, rimboccarsi le maniche per fare questo. Ci vogliono quindi risorse, impegno e il ricavato di questa iniziativa. Ci vuole anche l'organizzazione, certo. Vede, l'organizzazione per fortuna c'è, perché la fondazione ha questo centro studi per fare queste raccolta di dati dalla rete, da queste 400 cardiologie, che si è già guadagnato negli anni l'ammirazione della cardiologia internazionale. Quindi si parla sempre male dell'Italia, eccetera, ma questa è una realtà veramente eccezionale. Professore, adesso, oggi, in questo giorno di festa, celebriamo l'Italia, ma possiamo fare anche qualcosa di buono per il nostro cuore. Ci dia un consiglio di prevenzione da applicare oggi, approfittando proprio del giorno di festa. Certo, approfittando del giorno di festa oggi, quello che uno deve fare è applicare quelle cose che abbiamo già imparato, perché quelle si possono applicare da adesso, e quello vuol dire cercare di avere uno stile di vita salutare. Questo stile di vita salutare non è niente di complicato, perché vuol dire comportarsi con buon senso, sì, avere un'attività fisica regolare e soprattutto mantenere un peso forma che è quello ideale, non permettere che il peso aumenti e non permettere che sia necessario allargare di un buco la cintura. Professor Maseri, può essere anche piacevole prendersi il nostro cuore. Noi italiani abbiamo un cuore grande, oggi i nostri cuori battono per l'unità, e quindi io, professore, la ringrazio per essere stato con noi. Buona ricerca. Grazie, speriamo di riuscire ad essere bravi e fortunati come lo sono stati i nostri predecessori italiani. Grazie al professor Maseri. Ma Luca, io torno a te. Come hai scelto la canzone che hai cantato per il progetto Nata per Unire? Addio mia bella, addio. Perché voi due sul palco, a me, sembravate davvero emozionati, rapiti. Cantavate proprio con passione, lo sentivate nel cuore, nella pancia. Beh, c'eravamo parecchi elementi di emozione per me. Il primo, quello appunto di cantare una canzone storica così importante e con un significato così alto. E quindi il pensiero va a chi comunque per quei valori ha sacrificato la propria vita, e noi ce li siamo trovati lì senza rischiare niente di nostro, insomma. Quindi questo è un valore di riconoscenza anche nei confronti di chi è venuto prima di noi, e che in questi 150 anni di Unità d'Italia sono stati tanti gli eroi che hanno rinunciato a tutto, anche alla loro vita, per degli ideali che noi oggi diamo per scontati. E quindi questo era un motivo di emozione. Un altro motivo di emozione ovviamente è sempre la partecipazione al Festival di Sanremo. Beh, certo. Con quest'arma a doppio taglio della gara, ti senti sempre in gara con qualcosa, con qualcuno, con te stesso probabilmente, i voti, il televoto e quello e quell'altro, che sicuramente non contribuisce a un clima di grandissima serenità quando sali su un palco. E poi anche la condivisione di una canzone così italiana, così importante, così storica, con un artista che viene da un altro paese, dalla Spagna, come Raquel del Rosario, e quindi avere anche la responsabilità di portarla dentro questo discorso, di farglielo assimilare, capire e farglielo restituire in termini di intensità interpretativa. Quindi anche questa era una mia responsabilità, avendo io coinvolto Raquel in questa avventura. Allora io invito intanto i nostri ascoltatori 800 24 00 24 a intervenire o a scriverci al 349 238 6666. Oggi proviamo proprio insieme a scrivere una mappa con le parole chiave, i valori su cui noi crediamo, voi credete, insomma, insieme, uniti, si debba fondare la celebrazione di oggi. Come vi ho ricordato, alcuni ascoltatori mi stanno chiedendo: non ho capito, dei biglietti? Sì, è vero, Luca Barbarossa inviterà personalmente 6 di voi a teatro con un vostro accompagnatore per assistere ai concerti di Milano, Torino, Roma. E quindi sono 3 date, candidatevi 800 24 00 24, perché non capita tutti i giorni di essere invitati in persona da Luca Barbarossa. Intanto Alberto, parlando con te, io sono rimasta molto colpita quando tu mi hai raccontato che i tuoi bambini, che sono piccoli, hanno molto amato questo CD e in particolare la canzone di Luca. Sì, guarda, è stata proprio anche per me una grande sorpresa. Le canzoni del CD sono davvero bellissime. La canzone che ha cantato Luca, secondo me, ha dentro una storia così struggente e così potente. Ha proprio questi, c'è dentro una mamma, un papà, un bambino che sta per nascere, ci sono un uomo e una donna che si amano, c'è dentro un po' la storia di tutti noi e contemporaneamente c'è il voler appartenere a una famiglia, ma contemporaneamente il voler appartenere a un ideale grandissimo, quello della libertà per cui si deve combattere. E quindi è stata proprio una storia che gli ha fatto fare tantissime domande. Domande da una parte piene di paura, cioè potrebbe succedere ancora una cosa del genere, questo è chiaramente il tema della guerra, spaventa i bambini, ma anche domande proprio piene di speranza, cioè doveva essere davvero un ideale fortissimo quello che faceva dire a un uomo o una donna cose di questo tipo. E a proposito di canzoni e dei valori, no, che una canzone può veicolare, tu, Alberto, hai scelto dal CD di Luca 3 canzoni che raccontano i temi che vogliamo raccontare oggi, e le tue parole sono certa si uniranno a quelle dei nostri ascoltatori che ci invieranno al 349-238-6666 o chiamandoci in diretta al nostro numero verde 800-24-0024. Scusate, ma io voglio dare la precedenza ad Aldo che ci chiama da Hong Kong. Buongiorno Aldo. Buongiorno Nicoletta, come sta? Ma io bene, lei? Benissimo, grazie. Io ho voluto chiamare perché ero in contatto via Skype con un mio amico. Sì. E sentivo Radio 24, che quando sono in Italia sento sempre, specialmente la sua trasmissione come quella di La Zanzara e quant'altro. Sì. E niente, volevo solo dire che anch'io mi sento italiano, per quanto immigrato, virgolette, a Hong Kong. Sì. E nel mio ufficio c'è una bandiera italiana col jack della Marina in mezzo, perché io sono un ex della Marina, adesso sommergibile degli incursori. E quindi io mi sento sempre italiano e orgoglioso di essere italiano. Grazie Aldo, lei mi ha fatto un regalo a chiamarci. Grazie. Grazie a voi di avermi ascoltato. Buona giornata. Ah, 800-24-0024, questa è una giornata un po' emozionante. Alberto, qual è la prima canzone che hai scelto? Qual è la parola chiave che andiamo ad esplorare? Allora, guarda, la parola chiave è appartenenza. La canzone dal CD di Luca è Roma spogliata, e ti dico il motivo, perché secondo me Luca come cantautore è proprio partito da una fortissima affermazione della sua città, delle sue radici, della sua zona d'origine, ed è una cosa che ha portato con sé poi per tutta la sua proprio evoluzione artistica. E secondo me questo è proprio un valore, cioè partire dalle proprie radici è, credo, una parola chiave, un tema fortissimo anche nella giornata di oggi, molto molto dibattuta, molto combattuta, invece penso proprio che si debba partire da lì, e questo tra l'altro psicologicamente è proprio un valore fondamentale da dare anche a un figlio, cioè se un figlio non sente di appartenere al luogo che gli ha dato origine, dove ha messo proprio le sue radici, probabilmente sarà molto perso e disperso nella vita. Appartenenza, questa è la parola su cui rifletteremo insieme. Radici, aggiungete voi le vostre parole che raccontano il modo in cui state vivendo questa giornata, e non solo questa giornata. 800-24-0024, andiamo a sentire i mercati, il meteo e poi di nuovo insieme. Roma spogliata dei suoi tanti amori, dei suoi vecchi fiori. Roma fatata, lasciami cantare una serenata. Da-di-ba-da-da. Da-di-ba-da-da. Nelle macchine appannate dai discorsi su carnevale, i bambini disegnavano spauriti i loro cuori. E i tedeschi vestiti come al mare fan tremare le signore coperte di animali. Roma spogliata, è una canzone del 1981. Alberto, tu l'hai scelta per riflettere sulla parola chiave. Noi oggi stiamo cercando le parole, ne stanno arrivando diverse, le parole che ci raccontano un po' il nostro il modo in cui stiamo vivendo questa giornata. E tu hai scelto questa canzone per esplorare la parola appartenenza, radici, sentire di avere le radici. Tu però non credi, è stata una canzone di grande successo, non credi però che di questi tempi, se un nuovo cantautore avesse scritto un inno così, no? Con un chiaro senso di appartenenza, oggi sarebbe visto in modo un po' diverso rispetto al successo e all'accoglienza che ha avuto la canzone di Luca Barbarossa? Sì, io personalmente ne sono molto convinto, e questo è il motivo per cui trovo fondamentale che oggi venga celebrata la giornata dell'Unità d'Italia. Io credo che proprio questa relatività totale con cui a volte cerchiamo poi di muoverci nella vita e di crescere i nostri figli, che si sentono molto più cittadini di un villaggio globale a volte che del loro villaggio reale, a noi adulti deve fare un po' ripensare al fatto che bisogna lavorare profondamente sulle radici, perché solo sapendo dove si viene si può sapere dove si vuole andare. Andrei insieme a voi da Antonio, che ci chiama da Livorno, all'800 24 00 24. Antonio, buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. Antonio, grazie. Vuole aggiungere una parola? Sì, io vorrei aggiungere questa parola, sì. Acquisizione. Acquisizione. Dire, acquisizione. Noi ci siamo impadroniti, con grande gioia mia personale, di un pezzo di storia che sembrava che nessuno conoscesse, cioè quello del Risorgimento. Sì. Mi sembra che in questi giorni stiamo imparando ad apprezzare certi dettagli di questo pezzo di storia che ultimamente nessuno conosceva più. Parliamo, sì, dei garibaldini, parliamo di alcuni dettagli del Risorgimento che un po' avevamo smarrito. Ecco, abbiamo riacquisito, abbiamo rifatto nostro questo pezzo di storia, ed è una cosa comune a tutti. Io sto vedendo, sono sull'autostrada, sto vedendo bandiere dappertutto, non l'ho visto neanche durante i mondiali questa cosa, è una cosa stupenda. È vero, Antonio, è vero. Noi anche, io oggi sono vestita in bianco, rosso e verde, ho la coccarda che mi ha dato il mio collega Piacenza, ma devo dire che tutti cercano di richiamare con i colori il tricolore, ma proprio perché è un'emozione che viviamo dal di dentro. Antonio, grazie, buon viaggio. Stefano, dalla provincia di Rimini, buongiorno. Eccolo, buongiorno, buongiorno. Volevo salutare tutti e fare tutti gli auguri per questo bel giorno di festa e fare i complimenti anche a Luca Barbarossa per la sua carriera. Certo. E le canzoni. Stefano, qual è la sua, sì, parola oggi? La mia parola oggi è unità. Unità. Unità, inteso come unità della nostra nazione, del nostro Stato. Grazie Stefano. Dove passerà questa giornata? Sta vedendo tante bandiere? Sono a casa con la mia famiglia, con la mia famiglia. Ha dei bambini, Stefano? Ho due figlie. Come sta raccontando questa festa ai suoi bambini? Ma io gli ho raccontato un po', diciamo, ho cercato un po' di raccontare un po' come una favola quello che è avvenuto tanti anni fa, quando appunto ci fu appunto le battaglie, insomma, storiche, quelle del periodo poi di Vittorio Emanuele, di Cavour, insomma, eccetera. Insomma, ho cercato di raccontargli quel periodo lì. Grazie a Stefano dalla provincia di Rimini. Luca, tu, oltre che alla tua città, a cosa senti di appartenere in modo forte e potente? Dove collochi il tuo spirito di appartenenza? Ma guarda, io sinceramente adesso non vorrei snaturare il significato di questa giornata. Io mi sento fortemente appartenente al genere umano, nel senso che non ho mai fatto distinzioni. Ora noi ci troviamo a difendere, probabilmente perché lo sentiamo in questo periodo particolarmente in pericolo, quantomeno messo in discussione, ci troviamo a difendere il valore dell'unità nazionale. Sono il primo ad esserne sorpreso, nel senso che non ho mai pensato che fosse qualcosa da dover continuare a difendere. Era uno di quei valori che uno, diciamo, dava per scontato. Quello che cerco di scrivere nelle mie canzoni, non sempre in modo diretto, ma comunque il significato anche tra le righe delle mie canzoni, è che in realtà poi nessuno è mai, deve essere mai uno straniero in nessuna parte del mondo. Io credo che la cultura dell'accoglienza sia quella che rende grande un paese ed è quella che ci fa sentire questo senso di appartenenza e di somiglianza con gli altri esseri umani. Non vorrei che dietro il valore della patria poi si nascondesse anche quello più subdolo del nazionalismo o della difesa territoriale o della paura dell'altro, perché questa sarebbe un'opportunità persa, sarebbe un salto indietro di secoli. Ecco. Assolutamente. Io vorrei dare la parola a Isabella che ci chiama da Milano e poi passare alla nostra prossima parola chiave che Alberto puoi anticipare perché l'hai individuata, no? Questo secondo valore sfrugugliando nella tracklist del CD di Barbarossa, Social Club. La parola è memoria. Allora vediamo, magari è la stessa che voleva suggerirci Isabella. Buongiorno Isabella. Buongiorno. Senta, niente, io appunto la memoria mi riferisco a questa parola perché io ricordo che quando ero bambina, negli anni, fine anni 50, io presi la licenza di quinta elementare per poi fare l'esame di ammissione alle superiori. Sì. E mi ricordo che quella licenza fu molto bella perché gli insegnanti ci prepararono benissimo e ci fecero fare una cosa patriottica. Noi avevamo i grembiulini neri, collettino bianco e nastro tricolore, non me lo dimenticherò mai. Avevamo tutto il nastro tricolore, ma sempre si andava a scuola così, e ci fecero chiudere la scuola con la licenza di quinta elementare, facendo una festa bellissima e cantando Va pensiero. Grazie. Molto bello, e poi cantammo anche l'inno di Mameli. E poi un'altra cosa volevo dire, mi dispiace che tutto quello che noi sentivamo nella scuola prima di questo patriottismo, adesso purtroppo nelle scuole non si sente più tanto, è così lontano, e vorrei che invece le insegnanti inculcassero un poco questo senso del patriottismo ai bambini, perché noi siamo venuti con questo amore. Poi ho fatto molto bene la storia del Risorgimento, mi sono approfondita perché mi piaceva, i Monti Carbonari, Mazzini, eccetera, eccetera. E per ultimo volevo fare i complimenti al cantante Luca Barbareschi. Barbarossa. Piedovenia, sì, Barbarossa. Ma è l'emozione. Grazie, io non lo conosco personalmente, ma deve essere una persona molto sensibile. Sì. È molto buona, e non dimenticherò mai quella canzone di Sanremo che mi fece piangere, Portami a ballare. Grazie. Era molto bella, parlava del figlio che portava la mamma a ballare. È quello un po' che sogniamo tutti, Isabella, di avere un figlio maschio che ci porti a ballare anche, anche oggi. Grazie Isabella. Alberto, allora andiamo alla memoria, perché è proprio sul tema della memoria che tu hai scelto un'altra delle canzoni di Luca dal suo nuovo CD che ti è parsa particolarmente adatta, e io devo dire condivido. Andiamo. Allora, il tema della memoria, secondo me, ce l'ha appena proprio citato la nostra ascoltatrice Isabella. La memoria può essere astratta, cioè noi possiamo scegliere un valore in teoria, oppure può essere fatta di tante piccolissime cose, molto molto concrete, quel grembiule nero, quel fiocco tricolore, che però hanno dentro i simboli e i significati che in qualche modo danno senso al tutto. E ho abbinato questa parola a una canzone, secondo me, bellissima di Luca, che è Le cose da salvare, una lunghissima collezione di fotografie e immagini che danno il senso del nostro stare al mondo e di che cosa ci serve tenere dentro il cuore per capire il senso proprio del passare del tempo. Da salvare i quadri di Picasso e di Van Gogh, cent'anni di solitudine, il vecchio e il mare, la voce di Frank Sinatra e Nat King Cole, le note di Michele Yesterday, i pugni che tirava Cassius Clay, e quella notte da davanti alla TV. Un'astronave, un uomo che scendeva giù. Ho messo tra le cose da salvare i gol in bianco e nero di Pelé. L'Italia del 25 aprile, Benigni che tiene in braccio Berlinguer, l'armonica di Blowing in the Wind e il sogno di Martin Luther King. Ho messo tra le cose da salvare. Luca, tu, io sono, quando Alberto mi ha proposto le cose da salvare per esplorare la parola memoria, io ho trovato che fosse proprio la canzone giusta, anche perché mi piaceva fermarmi su questo aspetto. Tu non pensi che quello della memoria sia uno dei temi e dei valori più a rischio per i ragazzini, i ragazzi di oggi? Perché io mi accorgo, i nostri figli, forse noi siamo sicuramente senza il forse responsabili, vivono molto nel qui e ora, tutto va di corsa. Non c'è assolutamente, tempo, no? Neanche assolutamente. Per ricordare. Innanzitutto, guarda, colgo l'occasione per ringraziarvi e per ringraziare Alberto che parla delle mie canzoni, delle mie scelte in un modo tale che io vorrei portarmelo sempre con me. Venderei molti più dischi se lui fosse lui a spiegarli al pubblico. Veramente Alberto, vi ringrazio. Alberto. Va bene. Va bene, accetti? Abbiamo ovviamente con percentuale. È fatta. È fatta, però quando noi veniamo poi da voi, da Alberto e da Luca, diciamo ascoltiamo Radio 24, in particolare Essere Benessere, voi no? Ci fate, certo. Mettete un tappetino rosso. Eh beh, direi. O bianco, rosso e verde. Veramente complimenti. Dicevamo la memoria, proprio questi giorni sicuramente Radio 24, che è sempre attentissima a queste cose, è stato pubblicato uno studio sulla memoria, non solo quella storica, ma proprio sulla memoria anche quella personale, che noi sempre di più affidiamo alla tecnologia, alle memorie telefoniche, navigatori satellitari. Ecco, si fa l'esempio del tassista. Una volta ci meravigliavamo che un tassista conoscesse tutte le strade di una grande città, vedi Roma, oggi ci meravigliamo che pur chiedendo di andare a Piazza Navona, quello accende il navigatore satellitare, sì. Anche se è una piazza del centro molto molto molto conosciuta. E quindi il discorso della memoria è un discorso che è importantissimo, la memoria storica, la memoria dell'appartenenza, la memoria dei valori e di quello che appunto gli eroi della Resistenza o gli eroi del Risorgimento ci hanno lasciato in eredità. Ma quello che è ancora più inquietante è il fatto di non avere proprio più l'esercizio della memoria. Pare che i giovani sotto i 30 anni ci sia un 30% che non sa neanche il proprio numero di telefono di casa, perché ha affidato le tutto. Memorie tutto, deleghiamo troppo deleghiamo veramente però veramente poi sì, alla fine a forza di delegare poi si perdono dei passaggi. Beh, importanti la memoria, cioè vorrei così non ricordarlo, insomma, sottolinearlo, cioè la memoria poi alla fine è la cultura. Un uomo è ciò che ricorda, certo. Sa, veramente la nostra cultura è tutto ciò che noi ricordiamo a memoria senza dover cliccare su Wikipedia o su un telefonino. E poi come ci suggerisce Italo, è con memoria e ricordarsi di essere italiani. Don Antonio da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Don, mi dia la sua parola. Ma io ho pensato ad una parola che può aiutarci un po' a riflettere su alcune cose. Io credo che questa giornata sia una giornata da vivere secondo lo stile dell'educazione. Sì. Io credo che educazione significhi anzitutto amare il proprio popolo, la propria patria, vivere la propria cultura, e guardando anche intorno a sé, guardando le persone che vivono intorno a noi con il loro carico di amore e di cultura verso se stessi e verso il popolo che vivono e che magari in qualche maniera certo. Portano con sé. Ecco. Grazie Don Antonio. Educazione. Prego. Fiorella da Bologna, perché sono gli ultimi minuti di trasmissione, Alberto Pellai e Luca Barbarossa poi saranno chiamati a scegliere i sei di voi che saranno invitati da Luca ad assistere a teatro, al suo spettacolo. Fiorella, buongiorno. Buongiorno. La parola? Allora, la parola è libertà. Io sono una che ho messo fuori la bandiera italiana e la bandiera della pace. Io sono nata nel dopoguerra e quello che mi hanno insegnato, che ha combattuto per questo paese, è la parola libertà. Grazie Fiorella. Mariella da Lodi, buongiorno. Buongiorno. La parola che avrei scelto e che penso che rappresenti molto bene la situazione anche nostra è coraggio. Mi è venuto in mente ieri sera dove sono andata ad assistere alla celebrazione del 150° anniversario in una scuola media, sì, dove offro la mia collaborazione. Io ormai sono in pensione, ho insegnato nell'ultimo periodo della mia vita l'italiano, sì, agli studenti stranieri e adesso aiuto i ragazzini stranieri a inserirsi, sì, valorizzando le loro culture. E la scuola ieri sera, l'Istituto Comprensivo Gracchi di Lodivecchio, ha fatto una celebrazione bellissima all'interno della scuola, con tutti i mezzi possibili e immaginabili, economici. I ragazzi sono venuti a portare le sedie dalla mensa. Quindi lei dice coraggio, Mariella, ma lei mi suggerisce anche un'altra parola, che è la parola che Alberto aveva proprio scelto, è integrazione. Allora, dato che i minuti sono pochi e voi ci avete scritto in tanti e ci avete chiamato in tanti, metteremo al lavoro Luca Barbarossa e sulla pagina di Essere Benessere metteremo i 6 prescelti con accompagnatore, perché io voglio salutare Alberto Pellai e Luca Barbarossa insieme a tutti voi con una canzone che Alberto ha scelto proprio per esplorare il tema dell'integrazione. Io penso che questo sia il modo migliore per concludere la puntata di oggi. Siete d'accordo, Luca e Alberto? D'accordissimo. Allora, un saluto grande a Luca Barbarossa, un saluto grazie speciale ad Alberto Pellai, che speriamo che Luca non ce lo rubi, e andiamo a sentire Fino in fondo e noi ci sentiamo poi domani. Voglio solo un po' di pace, fare quello che mi va, non avere niente intorno, solo una candela accesa e guardarti in fondo agli occhi e con gli occhi attraversarti piano.